Radio 24 Reportage. In bilico tra il mare e la montagna, come tra la riscossa e il silenzio, Lamezia ascolta le parole dell'antimafia all'ombra della mala pianta. Lamezia è una città in bilico. La possibilità di un grande passo in avanti sul terreno civile e un ritorno indietro. Gianni Speranza, sindaco della città calabrese, partecipa a tutti gli incontri del fitto calendario del Festival Trame, che ha reso la sua città per una settimana capitale dell'antimafia, con le parole dei libri divenute armi contro i silenzi delle cosche. E quando a notte fonda, ormai finito l'ultimo dibattito, si tolgono le sedie dalla piazzetta, sul suo viso c'è la soddisfazione di averne viste aperte più di quante gli stessi organizzatori forse non immaginassero. Così, mentre al mattino i giornali locali annunciano di maxi sequestri a pregiudicati della zona ufficialmente nullatenenti, o di chili di droga arrivati dal Sud America insieme alla frutta, o ancora di avvocati che coi boss, loro clienti, ci stringevano affari, a sera centinaia di persone ascoltano magistrati, storici e giornalisti spiegare e raccontare in che modo le cosche violino la vita di ciascuno, in che modo la 'Ndrangheta sia diventata la malavita organizzata più ricca al mondo nella regione più povera d'Europa, ma anche di come cominciare a parlarne sia il primo atto per colpirle. La parola come testimonianza e la parola come trasmissione di un sapere sono queste due le cose che secondo me hanno mobilitato i movimenti, i giovani, eccetera, dal momento in cui i magistrati hanno deciso di non tenere per sé la loro esperienza. Lui è stato il primo a decidere di fare il passo, di raccontare quello che lui riteneva utile far sapere, ed è così che è nato quel libro, un momento di presa di coscienza sua, che stava cambiando di lavoro, sai, lasciava la procura di Palermo con tutti i veleni vari e cominciava una nuova vita a Roma. C'era un momento in cui doveva fare il punto. Marcel Padovani, corrispondente dall'Italia del Nouvel Observateur, è la cronista che meglio ha conosciuto il giudice Giovanni Falcone e che ha raccolto le sue riflessioni in un libro divenuto la Bibbia della lotta alla mafia, Cose di Cosa Nostra. E Marcel sa quanto conti mettere a nudo i segreti dei boss, accendere le loro zone d'ombra come a sera fanno a Lamezia le luminarie della festa del patrono. Lo sa perché lo aveva sentito dal magistrato che più di tutti aveva compreso forze e debolezze dei clan, meccanismi che anche con le parole di quel libro aveva voluto condividere. Ad ascoltare sotto il cielo di una calda serata calabrese tantissime persone del posto, ma anche i tanti ragazzi che da più città d'Italia sono arrivati fin qui per fare i volontari al festival voluto da Tano Grasso, cui assessore oltre che presidente della Federazione Antiracket. Sono Giulia, arrivo da Firenze, più specificatamente dall'Università di Bologna. Dall'Università di Bologna fin qua a Lamezia per? Per avvicinarmi di più a questa realtà, vedere le persone che hanno scritto tanti libri che io ho letto. Da dove vengo manca un po' un interesse generale nella materia, poi è chiaro che ci sono delle persone informate e interessate. Sono Antonella e vengo dall'Università di Catanzaro, sono di Rossano. Ho seguito un esame, storie dinamiche della mafia, e mi sono appassionata, era una cosa che già mi piaceva, ma non avevo mai avuto né la possibilità nel magari qualcuno che mi avesse spinto a fare qualcosa. Mi chiamo Camilla e vengo da Sant'Elpidio a Mari, che è una cittadina del Fermano. E sei venuta qui a far la volontaria, perché? Sì, io lo sento molto vicino come problema, anche perché ho sentito, non so, anche ad Ascoli, Pizzo per esempio, nessuno immaginerebbe, invece ci sono. A fianco alle parole dei giovani ci sono però anche i lunghi silenzi di quanti ancora non riescono neanche a pronunciarla, quella parola, 'Ndrangheta, ma ci convivono, come col sole bollente di fine giugno che li costringe a cercare riparo all'ombra di qualche sparuto albero. Lamezia Terme è come Roma, tutte le strade portano a Lamezia, tutte le strade portano a Roma. È invidiabile, una città invidiabile, dove tutti vorrebbero venire. Poi ci sono i buoni e i cattivi, questo lo sappiamo tutti. Invidiabile, però c'è anche una presenza molto forte di malavita. E come no. Aspettava così tante persone ieri sera, anche a mezzanotte la piazza era piena. Più o meno sì, sì. E la città voglia anche un po' di mandare un segnale. Sì, con una buona iniziativa, come no? Questo è un segnale che le cose vadano meglio. Ci dobbiamo accontentare. Lamezia è questo. Però qui c'è un problema grosso che si chiama 'ndrangheta. Sì, quello sicuro, purtroppo l'ndrangheta è una, come dire, è una radice che non si può cioè troncare, è una cosa che continua nel tempo e non si sa quando ci potrà essere un fermo totale. Secondo lei ci si convive e basta? No, noi ci conviviamo e purtroppo è dato anche, si sa, l'omertà che c'è e che ognuno, come dire, vuole vivere in pace e non pensare di, che le cose non dobbiamo risolverle noi in modo totale, bensì ci sono le istituzioni che servono a questo per poter risolvere e regnare per sempre questa pesante come dire situazione. E lei che cosa ne pensa? C'ho una tragedia. Lamezia, città in bilico. Lamezia, sede del primo processo contro il racket in Calabria, ma anche della nuova impennata delle richieste di Pizzo. La storia di Rocco Mangiardi, l'imprenditore che ha portato in tribunale una delle cosche più potenti, i Giampà, non sembra dunque aver ancora aperto un'autentica breccia. Diciamo che è iniziato tutto quando alcuni individui sono venuti nel mio magazzino per chiedermi di dare un pensierino a un certo zio Pasquale. Un zio Pasquale che non conoscevo personalmente, però per sentito dire sì. Io inizialmente non ho chiesto di quant'era questo pensierino da dare a zio Pasquale e a cos'era dovuto. E ho preso un po' di tempo, poi si sono rifatti vivi dopo un mese, 15 giorni, 20 giorni, e mi hanno ridetto di nuovo di questo pensierino. Gli ho chiesto di quanto si trattava questo pensierino, mi hanno detto 1200 euro al mese. Mi hanno fatto capire che con 1200 euro al mese avrei avuto il quieto vivere, la mia attività era tranquilla, potevo lasciare tutto aperto senza nessun problema. Cioè, lei ha capito subito che quel pensierino era un pizzo, sì, cioè chi vive qua questo lo sa. Era un'estorsione, conclamata. E chi era questo zio Pasquale? E zio Pasquale era il reggente del clan proprio Giampà. Reggente perché il boss vero e proprio è in galera da molto tempo, quindi... Le hanno chiesto praticamente uno stipendio, le chiedevano, quindi non una somma, ma 1200 euro al mese per quanto tempo? Credo a vita, ma poi sono sicuro che non sarebbe andato così, perché senz'altro non gli sarebbero poi bastati, se io avessi ceduto non gli sarebbero bastati questi soldi, anzi credo che con l'andare del tempo mi avrebbero senz'altro chiesto molto di più. Lei conosceva le persone che erano venute nel suo negozio, nella sua azienda a chiederle il pizzo oppure no? Erano persone del quartiere? No, erano persone della località in cui, vicine a Via del Progresso, dove io ho l'attività qui alla Lamezia Terme. Uno in particolar modo l'ho visto anche crescere, sì. Dopodiché lei che cosa ha fatto quando ha avuto questa richiesta? C'è stata una bella fortuna, io ho preso tempo, però nel contempo poi ho conosciuto l'associazione antiracket, Tala. Mi avevano mandato una lettera e in questa lettera diceva che potevo anche scrivere anonimatamente se io avessi avuto problemi e cose, però in quel momento a me sembrava che questa lettera, talmente ero preoccupato, ho detto se questa lettera me l'avessero mandato proprio loro per vedere che tipo di reazione faccio. Cioè pensavo che fosse un tranello, un inganno. Sì, pensavo che fosse un modo per tirarmi, per capirne i miei pensieri. E a quel punto cosa ha fatto? A quel punto mi sono informato per vedere se esiste davvero un'associazione anti-racket. A quel punto è cominciato il suo percorso che l'ha portata fino ad un processo. E quindi lei praticamente, cioè, si è messo contro una delle cosche più potenti di Lamezia. Non è la vincitrice perché Lamezia Terme è fatta da diverse cosche. Ce n'è una a San Biase, gli Annazzo. C'è questa cosca qui di Via del Progresso che sono i Giampà. Poi ci sono i Torcasio che al momento si dice sia la cosca perdente. Lei dopo la sua denuncia e dopo la sua esposizione ha avuto delle ripercussioni? Ha notato che qualcosa era cambiato rispetto alla sua quotidianità oppure no? Tanto da quel momento vivo sotto scorta. È diventato testimone di giustizia. Testimone di giustizia. Io mi considero più un resistente. Il lavoro non è andato male perché la gente di Lamezia ha reagito bene. Diciamo che il momento economico non è buono, però io da allora sono riuscito ad assumere un padre di famiglia e dargli uno stipendio giusto, cosa che non avrei potuto fare se avessi dato quei 1200 euro a loro. Anzi, avrei dovuto licenziarne uno per tenerne uno un'ombra che non c'era. Al coraggio delle parole in molti preferiscono ancora l'abitudine ai silenzi in una terra dove è sempre più difficile marcare il confine tra l'andrangheta e il resto e dove può capitare anche di essere uccisi senza sapere il perché davanti alle onde del mare, come è successo al fratello di Emma, unico sano in una famiglia con 4 figli disabili. Ho perso un fratello che aveva 20 anni, che aveva una decisione cattazza militare. Era col suo datore di lavoro e un giorno, anziché andare a lavorare, non c'era lavoro, sono andati al mare. Il datore di lavoro e un altro degli impettitori che era andato col datore di lavoro. Non so esattamente cosa sia successo tra i due. Di sicuro è partito un colpo. Mio fratello era pancia in giù, giù sulla spiaggia, che stava fumando una sigaretta. Questo colpo l'ha beccato in testa, dietro, non c'è stato più niente da fare. Il respiratore che dà ad Emma l'aria per vivere è come il coraggio che ha permesso all'associazione Progetto Sud, voluta dal parroco Don Giacomo Panizza, di volere a tutti i costi in gestione la villa confiscata ai boss Torcasio, il primo bene sottratto agli uomini di 'ndrangheta della città e riassegnato a qualcuno, dopo anni in cui case e terreni sequestrati restavano inutilizzati, perché così di fatto volevano i boss. Boss che sono tuttora confinanti con questa casa, divenuta un centro di assistenza ai ragazzi, di coltivazioni biologiche e di attività per le donne. E per questo Don Panizza è stato bersaglio di ripetute minacce e ora ha la scorta, come altri sacerdoti calabresi o come i giovani cronisti locali che le cosche vorrebbero ridurre al silenzio. E sono le loro parole che il sindaco Speranza cita, aprendo Trame, il festival appunto delle parole nei libri contro le mafie. A Don Tonino Vattiata, al quale hanno bruciato la macchina. Vorrei dedicare questo festival alla cooperativa dei giovani della piana di Gioia Tauro, la Valle del Marro. Questa cooperativa gestisce i terreni confiscati ai mammoliti, ai piromali, cioè, e hanno bruciato un oliveto di 7 ettari, bruciare un oliveto per non fargli raccogliere le olive. E vorrei dedicare questo festival ai giovani giornalisti calabresi. Riconosciuta ufficialmente e inserita nei testi di legge solo nel 2010, la parola 'ndrangheta ha cominciato solo allora ad essere scritta con costanza negli atti giudiziari, ripresa nelle cronache e nei libri, aprendo una prima fondamentale crepa in quel cono d'ombra che ha permesso alle cosche di espandersi e arricchirsi. Quando il silenzio è stato infranto, sono arrivate le minacce ai magistrati e anche il progetto, fermato con degli arresti, di uccidere un PM di Catanzaro. Procura che resta però come dimenticata, denuncia il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, che ha lanciato un appello al guardasigilli. Non abbiamo avuto risposte dirette. Abbiamo appreso recentemente della esistenza di un piano sicurezza, di cui però francamente ignoro i contenuti precisi. La situazione allo stato resta una situazione assolutamente insostenibile, sia sotto il profilo degli uomini che sotto il profilo dei mezzi. L'anno scorso abbiamo ricevuto 5 computer, in questi ultimi giorni sono arrivati altri 18. Qualche settimana fa un'inchiesta con degli arresti per un tentativo di attentato nei confronti di un suo collega, di un PM che si occupa delle cosche. Vi sentite un po' abbandonati? In realtà ci sentiamo dimenticati e crediamo di essere dimenticati, diciamo, come parte della Calabria. Tutto ciò che noi abbiamo negli anni richiesto non ci è stato dato. Chiaro che in una situazione in cui di fatto, di fronte a una situazione oggettivamente ingestibile, non interviene nessuno, né a livello statale né a livello locale, l'impegno dei singoli magistrati nel loro lavoro e nel compimento di un'attività che li espone a un rischio anche personale, la vicenda del collega è l'ultima di una serie di vicende, è un qualcosa che attiene al merito che bisogna loro riconoscere. Le parole smuovono tutti gli equilibri, le parole rompono i silenzi che le mafie vorrebbero, ed era per questo che Paolo Borsellino invitava a parlare di mafia in radio, in TV, sui giornali, ma parlatene, ripeteva, e il suo invito, il Festival Trame, l'ha trasformato in sfida, portando le parole nella terra dei silenzi.